Il suono della musica di Gigi Telesco. Siamo pronti per il soundcheck di oggi qui su Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo e buon pomeriggio a Sergio Cammariere che ci ospita. Questo è il nostro secondo appuntamento. Grazie a Sergio anche per il bellissimo pranzo, un po' pesante, tipico delle tue parti. Che cos'era questa cosa? Patate e peperoni? Sì, esatto. In calabro si dice pipe e patate ed è una roba che cioè dà un certo... Dà un certo swing. Sì. E poi mescolare i gusti... È come l'armonia un po', è come mescolare le note. È quello che fai tu ormai da tanto tempo, mescoli le note e la cucina, e credo che sia una delle cose più belle per un musicista, vivere in un ambiente dove si fa tutto, dalla cucina a suonare il pianoforte, e siamo proprio qui a fianco al pianoforte di Sergio. Facciamo sentire, è intonato questo pianoforte, è accordato bene? Stiamo registrando in questi giorni, però c'è stata una settimana di passione per il pianoforte. No, diciamo che ogni quattro giorni lo dovrei riaccordare, adesso è una settimana, quindi è un pochino leggermente calante, però... Vabbè, arriverà l'accordatore, lo metterà a posto. Ma tu non hai la chiave, il pianoforte non lo sai accordare da solo? No, è un lavorone. Ogni volta che ci ho provato ho fatto danni irreparabili. Io, prima del nostro collegamento, stavo ascoltando con Sergio un po' di musica varia. Lo abbiamo fatto per tutta la notte. Io non sono più abituato a fare tardi di notte, Sergio. Invece hai continuato. Fino a che ora sei stato in piedi? Lo so, ma tu mi avevi detto che volevi mettere come partenza della seconda puntata Yaka Seca, che tra l'altro è un gruppo che ho conosciuto grazie a te qui a Roma. C'è stata la presentazione del loro album, meravigliosi argentini. Capito, però io non volevo che tu andassi a scovare tutto il repertorio degli Yaka Seca Trio, argentini strepitosi che arrivano dal conservatorio, coniugano la loro passione per il folklore, per le origini della musica argentina, con il loro piglio contemporaneo da grandissimi musicisti. Però non pensavo di fare le 4 di notte, Sergio, perdonami, non sono abituato, anche perché avrei notato che io alle 7:30 mi sono fatti il caffè. Sì, compare, però Ugo Fattoruso, che è uno dei grandi musicisti uruguayano dai quali Yaka Seca, appunto, dal quale, cioè, Yaka Seca hanno fatto appunto una cover, Harry, di questo grande musicista, cioè, abbiamo ascoltato un'oretta solo di lui e si è fatto un pochino tardi. Sì, il caffè com'era? Ma il caffè era buono, anche perché l'ho fatto io. Questa mattina alle 7:30 tu dormivi alla grande, sei svegliato, non voglio dire 10 minuti fa, ma a mezzogiorno eri finalmente in piedi. Per farti riprendere dal torpore delle patate coi peperoni, Sergio, direi allora di partire subito, visto che li hai annunciati, di partire subito con gli Yaka Seca Trio. In Italia non sono famosi, però proprio qualche anno fa mi chiedevo con alcuni amici discografici, visto che nel nostro paese la musica americana irrompe nelle nostre case attraverso la radio, c'è la musica italiana, ogni tanto qualcosa di francese, gli inglesi vanno per la maggiore da tantissimi anni, ma in Argentina, in Brasile si sa, arriva tanta musica anche dal Brasile, ma in Argentina, questa era la domanda, che cosa sta succedendo? Ecco, in Argentina c'è un trio favoloso di musicisti, chitarra, pianoforte, batteria, percussioni, che si chiama Yaka Seca Trio, che alla lettera, me l'hanno spiegato loro, significa cacca secca. Io vedevo l'acqua. No, niente acqua, cacca secca. Comunque loro sono eccezionali, hanno tre voci meravigliose, insieme armonizzano dal vivo, sono straordinari. Li facciamo ascoltare? Ok. Il brano si intitola Carcará, Yaka Seca Trio, al soundcheck di Radio 24. Y creciendo la alegría de su casería, mirando el amor, que a veces cruza con un corto vuelo, que hay que alcanzar picando desde el cielo, como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa, carcará, asesino ciego y camino de oscuridad. dall'Argentina con furore, oserei dire, gli Acaseca Trio con Carcara, meravigliosi questi ragazzi, io li ho conosciuti, anzi da folle quali sono, alcuni anni fa decisi anche di produrre un loro disco, ed è per quello che anche Sergio Cammariere li ha conosciuti, perché li portammo in Italia proprio per fare un piccolo tour promozionale, proprio per presentare l'arte e il talento di questi strepitosi musicisti. Mi piacerebbe un giorno presentarli anche in televisione, però in questo momento di programmi musicali in televisione non ce ne sono poi tanti, a parte Sostiene Bollani. L'hai visto Bollani in TV? Sì, sì, è l'unico programma accettabile. E la memoria va sempre agli anni Ottanta, quando insieme a Renzo Arbore tu hai inventato una trasmissione meravigliosa che era Doc, dove abbiamo visto Miles Davis, abbiamo visto tutti i grandissimi, dai Manhattan Transfer a Sonny Rollins. È passata tutta la musica che era il nostro pane quotidiano, ecco. Allora, facciamo una cosa, facciamo una breve pausa, poi ritorniamo qui al soundcheck di Radio 24 e possiamo anche continuare il discorso sulla musica in televisione. Se ti va, Sergio. Ci sentiamo? Non lo so, adesso vediamo che cosa mi passa fra le mani. Soundcheck. Check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. E qui il livello è altissimo, mio caro Sergio. Al Jarreau incontra George Benson per ricordare Miles Davis con questa composizione scritta per Miles Davis dal bassista Marcus Miller. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 e siete in contatto con casa Sergio Cammariere. Casa Cammariere, la casa di Sergio. Parlavamo di musica in televisione. Sì, ma voglio ricollegarmi al discorso di prima, cioè Doc, International Doc, trasmissioni meravigliose. Quando arrivò il prossimo artista che tra poco ascolteremo, fu un delirio, perché c'erano questi brani scritti da questa band che erano eccezionali, ci riempivano il cuore. Beh, possiamo dirlo che stiamo parlando di Pat Metheny, ma io prima di ascoltare Pat Metheny e di ricordare anche la performance di Pat Metheny per una settimana intera a Doc lì nello studio 1 della Rai in via Teolada, pensa come sono cambiati i tempi. Adesso si va in televisione, si fa promozione, si fa partire la base. Allora a Doc Lyle Mace, il pianista di Pat Metheny, si portò il pianoforte, cioè si portò lo Steinway suo calibrato per le sue mani, e tra l'altro era uno Steinway che aveva un apparecchietto che lo rendeva MIDI con un'interfaccia. Ma lasciando Lyle Mace e Pat Metheny, perché secondo te nel nostro paese, quando si parla di musica, a parte Bollani che è veramente un episodio unico, una specie di piccolo miracolo, si parla solo di giovani talenti, quando invece il nostro paese è pieno di grandissimi professionisti che lavorano con successo in giro per il mondo? Perché? Che è successo? Lo dovremmo chiedere ai nostri politici. No, ma io lo chiedo a te. Quali politici? Io lo chiedo a te. Secondo te perché? Perché la musica non interessa più a nessuno? Qual è il problema? Ma non è vero, cioè, la gente ama, adora la musica e se la va a cercare navigando adesso, ecco, è diventata la musica, pian piano è diventata liquida, non è più solida, non è più fisica. Questo è vero, perché ognuno di noi si può fare il piccolo palinsesto personale lì sulla rete, su YouTube si faccia. Però in televisione se ne vede poca, a parte qualcosa su Rai 5. A me, tu sai che adoro la musica classica, c'è un programma interessante, Petrusca, con bellissimi concerti, monografie su grandi autori, compositori, penso a Gustav Mahler, a Brahms, Berlioz, a Stravinsky. Ho visto una bellissima Sagra della Primavera di Stravinsky ultimamente, di notte in replica. Certo, perché tu fai tardissimo, ma anche su Sky Art si vede un po' di musica. Lo diciamo perché noi vogliamo promuovere la musica anche attraverso i canali televisivi, e quindi sosteniamo Stefano Bollani. Assolutamente. Ma tu X Factor lo segui? Ti trovo impreparato su X Factor, perché? Sì, sai, io sono un po' baudo dipendente, no? Devo così citare una sua frase, che questa nuova televisione del reality ha creato la fabbrica dell'illusione. E io condivido questo suo pensiero. Allora, invece l'illusione non arriva da Pat Metheny qui al soundcheck di Radio 24. Il brano, una sua celebre composizione, ormai vi sto parlando del 1987, andava in onda Doc, sono passati un bel po' di anni. Il brano si intitola It's Just Talk, tanto per ricordare Doc, per ricordare Pat Metheny, per ricordare grandissimi artisti presenti nel nostro paese quando vengono qui a fare concerti e tournée. Soundcheck, il suono della musica. Sì, abbiamo continuato a parlare di musica in televisione con Sergio Cammariere e stiamo agli sgoccioli, stiamo per chiudere questo secondo appuntamento qui da casa tua. Sergio, io ancora ti ringrazio per l'ospitalità, devo andare nella mia cameretta blu a raccogliere i pezzi, però avrei notato che sono abbastanza ordinato. Assolutamente. Molto ordinato, Gegè. Grazie, grazie, grazie. Lo dirò a mia madre, sarà felice di questo. Sergio, parlavamo di musica in televisione, però tu poi sei andato anche al Festival di Sanremo, ci sei andato più di una volta, se non sbaglio. Sì, sono andato un paio di volte. Beh, la prima volta fu folgorante, perché la canzone era giusta. Però ecco, vincesti qualcosa, un premio della critica? Sì, premio della critica, miglior musica, terzo. Qual era il brano, ricordamelo? Tutto quello che è un uomo, quella lì che fa: se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Bellissima, bellissima, veramente bella, uno standard, eh? Esatto. E poi ci sei stato una seconda volta, invece? La seconda volta con Gau Costa, fu bellissimo. Volando, superando i monti, verso cieli bianchi di libertà. Volando finché tutto il mondo solo un punto sembrerà. Ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? L'amore non si spiega, tu sola sei per me. Ma è bellissima anche questa canzone. Ma tutte con una grande ispirazione, eh? Beh sì, quell'anno si festeggiavano i 50 anni della Bossa Nova, nel 2008, ed era un omaggio anche al mio grande amico Sergio Bardotti, che aveva creato una connessione con Chico Buarque de Holanda, che ascoltava i miei provini quando ancora Cammariere era uno sconosciuto, negli anni 90, e quindi fu un omaggio proprio a lui, a Bardotti e alla Bossa Nova. Ho una domanda, posso? Certo. Perché tu, dopo il periodo di Sanremo, a cavallo del periodo sanremese, eri attivissimo con i concerti. E avrei fatto quanti concerti? Centinaia di concerti in giro per l'Italia, all'estero, festival del jazz, teatri. Poi a un certo punto ti sei fermato. Per favore, torna a fare musica, torna a fare concerti, perché guarda, tu vivi in una casa bellissima, col pianoforte, una bella cucina, cucini bene, però guarda, ti vengo a prendere io, ti porto io in giro a fare i concerti, amico mio. Sì, sì, sì, volentieri, è che c'è stato un po' di confusione ultimamente tra i promoter locali, tra gli organizzatori, le agenzie. È accaduto un mezzo disastro, un po' come quello che accade nel nostro governo qui. Il nostro paese è tutto un disastro, però tu hai l'energia, sei un grande musicista. Sì, come, sì. Come fai a non portare in giro la tua musica sul palcoscenico? Infatti lo farò col nuovo album, torneremo di nuovo in pista più carichi di prima. E io ci voglio essere presente al primo concerto della prossima tournée, te lo prometto, proprio sul palco a fianco a te, vengo. Ok, già. Allora, chiudiamo questo appuntamento col soundcheck con un paio di cose. La prima ti riguarda, ed è una delle mie canzoni preferite, forse non una delle più famose del tuo repertorio, ma questa versione di Niente, questo è il titolo del brano, mi fa impazzire e veramente ti faccio i complimenti. Dell'amore vedo i tuoi orecchini tra di noi, te con la camicia che è mia, vedo un tavolo in noi su, ti mangiavo mentre ti sfuggiva un bel verso che io potevo perdere. Ho perso te. Il suono, la voce, il pianoforte, il gusto per la melodia e un senso romantico che più non si può. Questo è Sergio Cammariere, io lo ringrazio, ringrazio il mio amico Sergio per avermi dato ospitalità in queste due bellissime giornate di musica e parole qui al soundcheck di Radio 24. Io sono contento di questa tua nuova avventura radiofonica, tra l'altro Radio 24 è una radio che adoro, mi ha ospitato diverse volte lì a Milano nel palazzo di Renzo Piano, quello del Sole 24 Ore. Se non... Esatto, proprio lì. Che dire... ci ritroveremo presto. No, ma io torno prestissimo. Guarda, ti vengo a prendere, te l'ho detto, ti vengo a prendere e ti porto in giro a fare i concerti. Va bene. Allora, io anzi approfitto, se vuoi venire con me, perché domani io suono al Blue Note a Milano. Se vuoi fare una passeggiata a Milano, te ne vieni con me, è meglio che stai qua. Vai, continuare a registrare. Certo, devi continuare a registrare. Allora, chiudiamo in bellezza. Ti piace Bobby McFerrin? Lo adoro. Allora, qui Bobby McFerrin con un'altra ventina di strepitosi cantanti in Say La Deo. Grazie a Sergio Cammariere. Grazie a voi, buonasera. Soundcheck. Il suono della musica.